Allora, a pane, burro, rock and roll, sono le 7 e 30 minuti spaccati. Cosa sono quelle facce lì? Cos'è? Perché piove? Ma dai! Facciamolo splendere questo stramaledettissimo sole, no? E allora, let the sunshine! Si canta tutti insieme! Let the sunshine! Let the sunshine in, the sunshine in, let it shine. Fatelo splendere per Max De Riu, che è appena entrato in radio. Mi sa che non è andato a dormire quello lì. Glielo leggo negli occhietti. Salutiamo Aci. Alle 6 e 40 minuti, in occasione del mercato, il pollaiuolo già arrostiva e parvemi notare già la presenza di Starsky, mitico detective delle borse. Ma come stai messo? Ciao Roby da Genova. Yeah. Questo messaggio di Sebastian io me lo tatuerei sul petto. Quando il cruscotto diventa la tastiera, Rock FM è una religione. Dovete dormire di più, ragazzi. Dovete andare a letto un po' prima, ve lo dico io. Let the sunshine, let the sunshine. Un saluto a Luca. Gruppo d'ascolto Guardie ai fuochi del porto di Genova. Alla faccia. Un abbraccio a Loren, che scrive soltanto adunata. Me lo sono scritto spadino adunata, quello bisogna ricordarsi. Francesca, Genova. Oggi ho una prova di lavoro da un dentista, mi sono svegliata con voi. Dovrà andare bene per forza, Francesca. Che te lo dico a fa? Stai in una botte de ferro. Alex da Pisa. Questa mani non posso ascoltarvi, però vi saluto lo stesso perché so che ci siete. Guarda che roba. E invece purtroppo devo chiudere scivolando, perché questo messaggio è abbastanza particolare, è un messaggio che leggo in particolare agli amici che stanno ascoltando dalla città di Firenze. Ricevo questo SMS che non posso non leggere. Gruppo d'ascolto autista che va a letto alle 2 dopo un gran concerto garage e si sveglia alle 5:30 per andare a lavorare. Emiliano vi consiglia di non prendere il tram oggi a Firenze. È molto meglio. Amico e amica fiorentina che stai per salire sul tram, guarda che magari quello che guida è Emiliano. È messo molto male stamattina. Andiamo a piedi, dai, lascia stare. Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. Such a fine sight to see. Sweet love. spettri, fantasmi, zombies, zucche intagliate. Fastidiosi adulti vestiti in modo sconveniente. Improbabili serate in locali notturni. Anche quest'anno, tra poco, le nostre città verranno invase. E tutto per colpa di una festa che affonda le sue radici nella tradizione anglosassone. Halloween. Ma pane, burro e rock and roll non ci sta. E scatta la campagna a favore di ogni santi. Auguri in anticipo a tutti coloro che un santo vero e proprio non ce l'hanno. Buon onomastico a Abaco, Acilia, Abdone, Arabella, Agapito, Argelia, Ampelio, Asella, Archippo, Aza, Baldovero, Bassilla, Baldovino, Belina, Barsimeo, Berenice, Bonaldo, Brigida, Bonito, Brunilde. Rivalutiamo la festa di ogni santi. Riappropriamoci delle nostre tradizioni. Fire burning all night long. Rio Speedwagon, 7:40 minuti primi ed è subito delirio sulle frequenze di Rock FM. Pane, burro e rock and roll ed è subito panico fiorentino che si legge dai messaggi che arrivano. Ora io vi voglio bene, ragazzi, cioè io vi avviso, Emiliano il tranviere è messo male oggi, ce l'ha detto. Vi dico, se si può scegliere andare in tram o andare, che ne so, in auto, è meglio l'auto. Oppure l'altro consiglio che vi do è salire sul tram, guardare negli occhi l'autista e dirgli: Emiliano, se lui dice sì, scendete. Se lui vi guarda male, ok, potete andare. Dai, lo fa, vi prego, lo fate. Un appello agli amici fiorentini che stanno per prendere un tram, ve lo chiedo come un favore: salite e chiedete all'autista se si chiama Emiliano. Ma potete farlo con nonchalance, anche come, cioè, dovete fare la faccia che vi sembra di averlo riconosciuto. Ma tu sei per caso emiliano? E poi se lui non lo è, siete a posto. Se è emiliano, si scende subito. Perché Emiliano è messo male. Devo sgridare pubblicamente Spadino, che in questa trasmissione radiofonica non fa veramente niente. Diciamolo, Spadino, schiacci due bottoni e basta. Hai mandato in onda lo spot anti-Halloween di ieri. Sei un cretino, perché io e Freak ci perdiamo giornate intere a prepararli tutti diversi. Hai mandato lo stesso elenco di nomi di ieri. Sei un piscuano. Cosa ti paghiamo a fare? Oh, va bene. Io mi chiamo Duccio e un santo non ce l'ho. Auguri anche a me. Ma viva ogni santi e la nostra cultura da Firenze. L'elenco dei nomi c'è tutto, dalla A alla Z, quindi prima o poi dovremmo arrivare anche a voi. Va bene, proseguiamo. Salve Giovanna. Ciao. Il mio nome è Roy. E il mio è Ariel, ciao. Sei del Texas? No, di Gallarate. Di Gallarate. Anche tu? Strano. Non ti avevo mai visto in giro. Si chiamano Jefferson Airplane, uno dei nomi che preferisco annunciare su Rock FM. Senti qua. Jefferson Airplane. E questa è White Rabbit. Mentre passa una macchina della polizia municipale, affari spianati, ai ai ai. Ci hanno preso, Spadino? No, sono andati avanti, vai. È andata anche per stavolta. Genitori con i bambini, restate qui. One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you. When she's 10 feet tall, and if you go chasing rabbits, and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you. Sempre con enorme piacere. Grande. Che noi testiamo il rapporto che Pane, Burro e Rock and Roll ha con il suo giovane pubblico. Con i più piccoli. Ah, con i bambini. Tragitto, casa, scuola, esatto. Che ci ascoltano con i genitori. Esatto, l'aggancio reale con le nostre piccole creature in ascolto. Abbiamo un piccolo radioascoltatore di riferimento. Sento già Spadino comporre il numero. Pronto, Francesco? Pronto? Eccolo. Oh, scusate ragazzi, ma fa piano sto giro. Che se... Allora, fatti chiari, oggi si va a scuola. No, ma oggi devo stare a casa. No. Devo stare a casa oggi. Oggi non si denuncia nessuno. No, oggi casa. Ma perché? A casa. Ma tranquillo. Ma mamma non ti sta accompagnando a scuola, dov'è mamma? Mamma è quella che si è rivolta. Allora Francesco, noi iniziamo con la storia delle gocce. Hai combinato qualcosa delle tue? Le pillole. No, sta di là. No, ma sta di là, ho capito. Sta ancora dormendo? No, sta svenuta. Svenuta? No, svenuta adesso. Svenuta. Hai sta combinato male. Qualcuna delle tue, Francè. Cosa le hai fatto? Cosa hai fatto a mamma? Mi hanno messo il test di gravidanza. No, ma come mi hanno messo il test di gravidanza? Ma... Quella povera Crista pensa di avere un altro figlio. Me l'hai fatta svenire. Un figlio come te. Guarda che un bambino da mantenere di questi giorni è un casino. Ne ho uno. 8 bambini. Come 8 bambini? plurigemellare, gli ho detto. Plurigemellare. Francesco, ma come stai messo? Un parto... No, aspetta, scusa, aspetta, devo andare a là, se sveglio mamma, devo andare a testa che vomita. No, ciao, ma, ragazzi. No, dille la verità, Francesco. Attaccato, ma... Dille la verità. No, no, no. Signora, se ci sta sentendo, era finto. Signora, la capiamo, sa, la compatiamo. Francesco è veramente una peste. Madonna. E beh, che c'è? I love you, Wayne. Peter Frampton che passa a trovarci nella mattina di... Però che, guardate che siete scemi. Lì Free Cantoni sarà scemo, ma anche voi non siete messi bene, eh? Questo è il secondo... Allora, volevo leggerne uno di messaggio. Mi è arrivato un altro uguale. Questo per farvi capire come state messi. Allora, uno mi scrive. Sono salito sul tram e gli ho detto, Emiliano? E risposta, no, sono romagnolo. Ne era arrivato uno 30 secondi prima. E si risponde, Emiliano, no, toscano, come si fa? Scemi. Scemi! Dormite di più. Mannaggia. Guardatelo qui, si firma Paolo. Caro Ariele, oggi gna faccio proprio, sono reduce da un diciottesimo. Cos'è un diciottesimo? Un compleanno? Oppure l'anniversario, il diciottesimo anniversario di matrimonio? No, sarà un... È uno studente questo, che commenta, guardando il banco l'unica cosa che riesco a pensare è... Non lo leggo proprio preciso perché è una parola ribelle quella lì. Se mi viene mi devo girare in tempo sul cestino. Ci siamo capiti, bravo Paolo. Non dovevi andarci, cioè scusa, non voglio essere... No vabbè, non le dico più ste cose. Urge strombazzata alla mia collega, aperta la parentesi, quella di Mr. Trombetta, che è da due mesi, che ha due mesi dalla scadenza è solo al 35% del suo primo incarico in ditta. Verifiche di sicurezza sugli elettromedicali di un ospedale, più di 1000 apparati. Quindi meglio la trombetta di pane, burro e rock and roll che la trombata del capo. Io gliene do una. Ciao. Oh, io ambasciatore non porta pena. Iannacci in studio. Tatatira, tatatira, tatira, tirata. Scrive Diego. Aiuto, Ste, guardate qui. Tra 5 mesi mi nasce un bimbo. Bimba, non lo sanno ancora. Mi dovete aiutare con i nomi. Non santi, ovviamente. Ciao, Ste. Beh, resta qui che senti tutta la sfilza di quelli che un santo non ce l'hanno. Però non so se conviene tanto prenderla da quella lista lì, perché... A parte che l'ha fatta Isacco, quindi... Ah. Tra poco Rogna e Frigo. Nella prossima ora di diretta ne abbiamo un fracasso di cose da fare. Dobbiamo connetterci con il nostro patentato 147 che sta studiando la concorrenza. Rosy, sei all'ascolto? Facciamo vedere qualche maschietto nudo? Ma sì, dai, che alziamo l'ascolto femminile, che serve sempre. Buttalo via. Away. Sì, frigo, dimmi. Ciucciati questo. Cos'è? Erba. Erba? Sì, erba. Gli umani se la fumano, la sperimentano su di me. Che cazzoni, fumano l'erba? E chi si credono di essere, delle capre raffinate? Avete buona? Capre raffinate! Senti un po', Rogna? Figata. Sì, ficata. Mi gira la testa. Anche a me. C'ho fame. Anch'io. Erba. Erba. Capre raffinate. Avete buona? Capre raffinate! Spettri, fantasmi, zombies, zucche intagliate. Fastidiosi adulti vestiti in modo sconveniente. Improbabili serate in locali notturni. Anche quest'anno, tra poco, le nostre città verranno invase. E tutto per colpa di una festa che affonda le sue radici nella tradizione anglosassone. Halloween. Ma pane, burro e rock and roll non ci sta. E scatta la campagna a favore di Ogni Santi. Auguri in anticipo a tutti coloro che un santo vero e proprio non ce l'hanno. Buon onomastico a Gabino, Genesia, Gaglioffo, Ghita, Gallicano, Giulitta, Gerasimo, Godeberta, Gomberto, Gunendelinda, Icaro, Ianira, Ido, Igina, Ildefonso, Ildegonda, Illidio, Imelda, Ischirione, Iona. Rivalutiamo la festa di Ogni Santi. Riappropriamoci delle nostre tradizioni.